Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro secondo, versi 111-400. Fetonte, figlio di Apollo il Sole, ha preteso e ottenuto dal padre riluttante il permesso di guidare il carro abbagliante del giorno. E mentre quel temerario di Fetonte allibisce e si studia quel capolavoro, ecco che, allertata dai chiari d'Oriente, l'aurora spalanca i battenti di porpora e gli atri stipati di rose, sciama l'esercito delle stelle, serrate le fila, Lucifero lascia per ultimo la postazione del cielo. Appena lo vede calare a terra, il mondo arrossarsi, illanguidire la falce dell'ultima luna, Titone alle ore comanda di aggiogare i cavalli. Le dee, sollecite, eseguono e dalle stalle del cielo conducono ingozzati di succo d'ambrosia i quadrupedi che sputano fuoco e li bardano coi loro morsi sonanti. Allora il padre spalma sul viso del figlio un unguento celeste, così da sottrarlo alla voracità delle fiamme, gli corona la testa di raggi e, cavando dal petto appenato un sospiro sull'altro, presagio di lutto, gli dice: «Se puoi tener conto almeno di qualche consiglio paterno, risparmia la frusta, ragazzo, e usa al meglio le redini. Correre corron da soli, semmai il problema è frenarli. Non tagliare dritto per dritto le cinque fasce del cielo. C'è una pista obliqua che, tracciando una curva larghissima, si tiene all'interno di tre zone sole ed evita tanto il polo australe quanto le orse e i venti del nord. La strada è quella, vedrai chiari segni di ruote. Per trasmettere a cielo e terra un calore uniforme, il carro non lo portare né troppo basso né troppo alto. Se sfori in altezza, bruci i palazzi celesti, in basso bruci la terra. Nel mezzo vai più che tranquillo. Attento a non scarrozzare a destra e ficcarti nelle anse del serpente, o a sinistra e sbattere contro l'altare. Tienti al centro, per tutto il resto affidiamoci alla fortuna. Spero ti dia una mano e ti voglia più bene di te. Io parlo e l'umida notte ha toccato il proprio confine sulle rive di Esperia. Tardare non è più permesso. Tocca a noi, fugate le tenebre, ecco che splende l'aurora. Afferra le redini, ma se mai tu dovessi cambiare idea e far tesoro dei miei consigli più che del mio carro, fallo finché sei in tempo e poggi i piedi per terra, finché non monti quest'asse che pazzo tanto hai bramato. Tu assisti al sicuro e lascia che la terra la illumini io». Ma lui s'impossessa del carro, leggero al suo giovane corpo, e in piedi, felice di stringere in mano le briglie accordategli, si gira a ringraziare il padre che non vorrebbe. Intanto Pirois, Eoo ed Eton, cavalli volanti del sole, e quarto Flegon riempiono di nitriti fiammeggianti l'aria e tempestano i cancelli di calci. Appena Teti, ignara del destino che attende il nipote, li apre e spalanca ai cavalli l'immensità del cielo, quelli si avventano, strappano scalpitando per l'aria le nebbie che incontrano. Poi, levati sulle ali, sorpassano i venti dell'est che nascono in quelle stesse regioni. Ma il carico è troppo leggero e i cavalli del sole, mancando al giogo l'autorità di sempre, non lo riconoscono. Come navi senza la debita zavorra sbandano e, instabili per leggerezza, vanno in balia del mare, così, senza il peso consueto, il carro sobbalza nell'aria, dando tremendi scossoni come se fosse vuoto. Appena avverte la cosa, il tiro a quattro si sfrena, abbandona la pista battuta e corre a vanvera. Adesso ha paura anche lui, non sa da che parte tirare le redini, non sa il percorso e a saperlo non lo saprebbe imporre. Ecco che ai raggi del sole le gelide stelle dell'orsa si scottano e tentano invano di tuffarsi in acque proibite, mentre il serpente, che a ridosso dei ghiacci polari, per solito pigro dal freddo, non mette paura a nessuno, si scalda dentro, animandosi d'una insolita rabbia. Perfino tu, mi ricordano, ti desti sgomento alla fuga, per lento che fossi e attardato dalla tua carrozza, Boote. Quando, dal sommo dell'etere, lo sciagurato Fetonte intravede laggiù la terra lontana lontana, sbianca, e i ginocchi gli tremano d'un improvviso tremore, e sugli occhi gli scende in tanta luce la tenebra. Vorrebbe non aver mai toccato i cavalli del padre, non averlo mai conosciuto, non averla avuta vinta supplicando, esser detto figlio di Merope. E intanto è travolto come una barca che, sbatacchiata dal vento, il pilota non governa più, fidando ormai solo nella pietà degli dèi. Che fare? Lasciatosi molto spazio di cielo alle spalle, sotto gli occhi ne ha ancora di più. Mentalmente misura questo e quello, una volta prefigurando l'Occidente che i fati gli negano, un'altra riandando l'Oriente. Non sapendo che fare, si incanta, non molla le redini né sa tirarle e ignora perfino il nome dei quattro cavalli. Nello svariare del cielo vede anche ubiquo uno sciame di meraviglie e atterrito in mani fantasmi di belve. C'è un luogo dove Scorpione inarca le chele in un doppio arco e flettendo da questa parte e da quella la coda e le branche copre lo spazio d'una doppia costellazione. Quando il ragazzo lo vede che minaccioso, sudato di nero veleno, lo punta con l'uncino del suo pungiglione, fuori di testa, gelato di terrore, abbandona le briglie. Appena le sentono lasche sulla groppa, i cavalli, senza chi li governi a dovere, si scapicollano per sconosciute regioni dell'aria dove la foga li porta e contro le stelle trapunte sulla volta del cielo vanno a cozzare e trascinano il carro nell'impervio assoluto. E ora si lanciano in su, ora a capofitto si avventano per tracciati scoscesi e troppo vicini alla terra. La luna trasecola nel vedere i cavalli di suo fratello scorrerle sotto, le nuvole accendersi e svaporare. Dalle fiamme ghermita nei suoi rilievi la terra si screpola, ecco, e si crepa e disidratata si essicca. Biancheggiano i pascoli, bruciano le foglie sugli alberi, secche le messi, il flagello alimentano che le divora. Ma questo è niente. Spariscono con tutte le mura grandissime città, intere regioni, con tutti i loro abitanti inceneriscono. Bruciano i boschi con le montagne. Brucia l'Atos, brucia il Tauro di Cilicia, il Tmolo, l'Eta e l'Ida, ora secco, a suo tempo crivellato dalle sorgenti, e il virginale Elicona, e l'Emo, prima di Eagro. Brucia l'Etna, moltiplicando col proprio il rogo del cielo, ed il Parnaso bicipite, e l'Erice, e il Cinto, e l'Otri, e il Rodope, che ora vede le sue nevi squagliarsi, e il Mimante, e il Didimo, e il Micale, e sacro ai riti, il Citerone. I ghiacci non salvan la scizia, brucia il Caucaso, brucia l'ossa col Pindo e, ben più imponente di entrambi, brucia l'Olimpo e le vette aeree delle Alpi e il nuvoloso Appennino. E Fetonte, Fetonte che vede l'universo per quanto è grande in fiamme, che più non sopporta tanta furia di caldo e l'aria che respira gli sembra sbuchi dal fondo d'un forno e si accorge che il carro è incandescente e non ne può più delle ceneri e delle faville che quello spruzza tutti intorno avvolgendo tutto d'un fumo rovente e non sa più dove vada, dov'è, affogando dentro una bruma di pece si arrende all'arbitrio dei suoi cavalli volanti. Fu allora che, a quanto si dice, a fior di pelle aspirato, il sangue degli etiopi si è fatto nero. Allora la Libia, evaporati dal caldo gli umori, si è fatta deserto e le ninfe, capilli al vento, presero il lutto per laghi e sorgenti e Beozia cercava le acque del Dirce invano, Argo Amimone, Efire la fonte Pirene. Nemmeno i fiumi dotati di rive distanti fra loro se la cavano. Il Tanai fumava nel centro della corrente, e il vecchio Peneo così, e il Caico in Teutrania così, e il celere Ismeno con l'erimanto Fegeo, l'Oxanto destinato a bruciare di nuovo, e così il Licorma biondissimo, così il Meandro che gioca ad attorcigliarsi scorrendo, il Mela nella Migdonia e l'Eurota in Laconia, così. Bruciò a Babilonia l'Eufrate, bruciò l'Oronte, bruciarono il Termodonte veloce e il Gange e il Fasi, e l'Istro, cuoce l'Alfeo, le due sponde bruciano dello Sperchio, l'oro che il Tago convoglia fluisce fuso nell'acqua e gli uccelli fluviali che affollavano di canti le rive della Meonia friggono in mezzo al fiume Caistro. Fugge il Nilo atterrito alle estremità della terra per nasconder la testa dove ancora è nascosta. Le sette bocche son vacue e sabbiose, son sette letti senz'acqua. Una stessa sorte prosciuga Ebro e Strimone in Tracia. In occidente i corsi di Reno, Rodano e Po e fiume Tevere. Tu, destinato al dominio del mondo. Si crepa la crosta e traverso le crepe la luce si imbuca nel Tartaro, terrorizzando il re dell'inferno e sua moglie. L'oceano si accorcia ed affiorano assetate distese di sabbia dove prima era l'acqua. Sbucano monti nascosti sul fondo del mare e delle cicladi incrementano il computo vago. I pesci cercano gli abissi e i curvi delfini non osano volteggiare sull'acqua come è loro costume. Supini galleggiano a pelo di mare, corpi di foche morte. Lo stesso Nereo, con Doride e con le figlie, pare si rintanasse in grotte peraltro tiepide. Tre volte Nettuno tenta di cavare dall'acqua le braccia e il viso torvo, tre volte non regge a quell'aria di fuoco. La madre terra, però, circondata com'è dall'oceano, iscritta fra le acque marine e fonti ovunque ridotte e acquattatesi al buio nelle sue stesse viscere, alza a fatica torcendo il collo la faccia umiliata, con la mano si para la fronte, in un immenso tremore che tutto scrolla, si assesta appena al di sotto della sua sede usuale e con voce secca parla così: «È questo che vuoi? Me lo merito? Allora perché mi risparmi i tuoi fulmini, re degli dèi? Se devo morire per fuoco, sia almeno il tuo, la maestà del carnefice, attenui il supplizio. Mi si apre appena la bocca per dire quello che dico, il fumo la soffoca, e guarda questi capelli strinati, quanta cenere ho sulla faccia, quanta negli occhi. Questo è il compenso, e questo l'onore che rendi allo zelo e dai raccolti di chi tutti i mesi dell'anno si lascia sfruttare e patisce le piaghe del vomere e dei rastrelli, procura foglie al bestiame, al genere umano alimenti più delicati e frutta, e a voi procura l'incenso. Ma anche se io meritassi questo strazio, che c'entra il mare? Tuo fratello che c'entra? Come mai le acque assegnategli in appannaggio decrescono e gli si allontanan dal cielo? Non ti commuovo io, d'accordo, né tuo fratello. Pensa al cielo che è tuo. Guarda i due poli che bruciano tutti e due. Se adesso il fuoco li attacca, vi crollano in testa i palazzi. E Atlante stesso è sfinito, non ce la fa più a portare a spalla l'asse rovente del mondo. Se i mari, se le terre, se sprofonda la reggia dei cieli, noi torneremo a confonderci nel vecchio caos. Alle fiamme strappa il poco che avanza, fatti carico dell'universo. Non disse altro la terra, non potendo più sopportare il bollore dell'afa, né dire di più, ritrasse la testa dentro di sé, riaccostandola alle caverne dei morti. Ora l'Onnipotente, chiamati a testimoni gli dèi tutti, incluso chi aveva prestato il carro, che se non interviene lui padre, sparisce tutto nel nulla, guadagna la rocca di dove usa coprire la terra di nuvole, espellere il tuono, puntare e scagliare le folgori. Ma non trova più nuvole per coprire la terra, né temporali da scaricare dal cielo, e tuona. E bilanciato il fulmine, vicino all'orecchio destro, mira l'auriga e ad un tempo lo sbalza via dalla vita e dal carro, e con la ferocia del fuoco sgomina il fuoco. Atterriti, i cavalli s'impennano all'incontrario, sfilano il collo dal giogo, strappano le briglie e le lasciano lì. Cascano i morsi nel vuoto. Nel vuoto l'asse divelto dal timone e raggi di ruote a pezzi e per larghissimo tratto di vuoto i relitti del cocchio in frantumi. Fetonte, con i capelli rossi devastati dal rosso del fuoco, si avvita e precipitando traccia lunghissimamente l'aria, come alle volte una stella dal cielo sereno che anche se cadere non cade, sembra che cada. Nell'emisfero opposto, lontano dalla sua patria, lo accoglie il po favoloso e gli lava il viso che fuma. Tumulano le naiadi dell'Esperia, il corpo bruciato dalla fiamma tricuspide, e iscrivono sulla pietra questi due versi. Qui giace Fetonte, auriga del carro paterno. Non è riuscito a governarlo, ma osando in grande è caduto. Il padre invece, malato di dolore, aveva nascosto il viso, velandolo al lutto, e, tutto è crederci, pare passasse un giorno intero senza ombra di sole. Soltanto gli incendi facevano luce. La catastrofe serve a qualcosa. Climene, dal suo canto, detto tutto quanto si dice in tragedie del genere, lugubre e pazza, stracciatesi le vesti sul seno, ispeziona la palla del mondo in cerca prima d'un corpo esanime, poi non più che di ossa, e ossa trova, e le trova sepolte in terra straniera, e stramazza, e inonda di lacrime il nome del figlio che legge sulla pietra e vuole scaldarlo con le mammelle scoperte. Non piangono meno le Eliadi, e le lacrime offrono invano tributo alla morte, e si battono il petto, e miseramente querelandosi, abbarbicate al sepolcro, chiamano notte e giorno il fratello Fetonte, come potesse sentirle. Quattro volte la luna, giungendo i corni, ha colmato il suo disco e quelle, secondo un uso perpetuato in abitudine, continuano a urlare. Ma a un tratto la maggiore delle sorelle, Fetusa, cercando di mettersi in ginocchio, lamenta che i piedi le si sono irrigiditi e la bianca Lampezia, che tenta di raggiungerla, sente l'impaccio d'una improvvisa radice. Una terza, che vuole strapparsi i capelli, si trova in mano foglie strappate. Si lagna del tronco che le imprigiona le gambe, un'altra di braccia che le si allungano in rami. Mentre allibiscono, gli inguini si fasciano d'una corteccia che per gradi avviluppa pance, petti, spalle, mani. Non avanzano che le bocche per invocare la madre. Ma che farà mai la madre se non correre a caso, incalzata dall'angoscia, e fin quando è possibile quelle bocche baciarle? Non le basta, tenta di svellere dai tronchi corpi di figlia e con le mani spezza teneri rami, ma grondano gocce di sangue da lì, come grondano da una ferita. «Smetti, mamma, ti prego», gridano le mutilate, «smetti, ti prego, ci strappi il corpo se strappi l'albero. Addio, mamma», si salda la corteccia su queste parole. E da lei stillano lacrime che, appese ai giovani rami, il sole indurisce in gocce d'ambra e il limpido fiume convoglia a farne collane per le belle spose latine. Assiste a questo prodigio Cicno, figlio di Stenelo, che, sebbene legato a te dal sangue materno, ti era ancora più intimo per desiderio, Fetonte. Lasciato il suo regno, i popoli liguri e le loro grandi città, stava riempiendo di rantoli le verdi sponde e le acque del Po e le selve infoltite dalle Eliadi sorelle, quando la voce virile gli si affievolisce, i capelli si cambiano in piume bianche, il collo si scosta dal petto stirandosi, una membrana congiunge le dita rossicce, due ali gli fasciano i fianchi, un becco smussato la bocca. Cigno è fatto, stranissimo uccello che nel ricordo del fulmine, scagliato a torto da Giove, del dio di Fida e del cielo, cerca stagni ed ampie lagune e, detestando il fuoco, elegge a dimora il flusso dell'acqua ostile alle fiamme. Intanto, squallido, spoglio del suo splendore di sempre, il padre di Fetonte, come gli capita in tempo d'eclisse, odia la luce del giorno e odia se stesso, si abbandona al dolore e rincara tanto dolore con l'ira e nega il servizio al mondo. Basta, fa, dal principio del tempo, il destino non mi dà requie, sono sfinito di questa ininterrotta fatica senza riscontro. Il carro che porta la luce, se lo guidi qualchedun altro, se non si trova, se tutti gli dèi si confessano inetti, guidi lui, con le mani occupate dalle redini, riporrà per un attimo almeno quei fulmini che ai padri ammazzano i figli, e capirà la potenza dei cavalli di fuoco, saggiando che chi non sa governarli non meritava la morte. A queste parole tutti gli dèi si assiepano intorno al sole e lo scongiurano in coro plorante di non seppellire il mondo di tenebre. Giove stesso si scusa del fulmine e integra, vero monarca, le suppliche con le minacce. Febo allora riassetta i cavalli atterriti e fuori di testa e, disperato, li strazia col pungolo e con la frusta. Li strazia e come, incolpandoli della morte del figlio.